Il capitano John Somers sbarcò a Valparaiso il giorno indicato dalla Maci. Era il secondo venerdì di febbraio di un'estate rigogliosa. La baia ferveva di attività, con mezzo centinaio di barche ancorate e altrettante al largo in attesa del loro turno per avvicinarsi a terra. Come sempre, Jeremy, Rose ed Eliza ricevettero al molo quello zio straordinario che giungeva carico di novità e di regali. La borghesia, che si dava appuntamento per visitare le imbarcazioni e comprare di contrabbando, si mischiava agli uomini di mare, ai viaggiatori, agli stivatori e agli impiegati di dogana, mentre le prostitute appostate a una certa distanza facevano i loro conti. Negli ultimi mesi, da quando la notizia dell'oro aveva pungolato l'avidità degli uomini su ogni sponda del mondo, le navi arrivavano e salpavano a un ritmo forsennato e i bordelli non tenevano il passo. Le donne più intrepide, tuttavia, non si accontentavano del buon momento d'affari a Valparaiso e calcolavano quanto più denaro avrebbero potuto guadagnare in California, dove la percentuale era di 200 uomini per ogni donna, a quanto si diceva. Nel porto la gente inciampava in carri, animali e pacchi, si parlavano varie lingue, suonavano le sirene delle navi e i fischietti delle guardie. Miss Rose, con un fazzoletto profumato alla vaniglia sul naso, scrutava i passeggeri delle imbarcazioni in cerca del fratello prediletto, mentre Eliza aspirava l'aria a rapide boccate, cercando di separare e identificare gli odori. Il tanfo del pesce nelle grandi ceste al sole si mescolava al lezzo degli escrementi delle bestie da carico e al sudore umano. Fu lei la prima a vedere il capitano Somers e provò un tale sollievo che quasi si mise a piangere. Lo aveva aspettato per mesi, con la certezza che solo lui avrebbe potuto comprendere l'angoscia del suo amore. Contrastato, non aveva fatto parola di Joaquin Andieta a Miss Rose e men che meno a Jeremy Somers, ma nutriva la certezza che lo zio navigatore, che niente poteva sorprendere o spaventare, l'avrebbe aiutata. Appena il capitano mise piede sulla terraferma, Eliza e Miss Rose gli si scaraventarono addosso in tripudio. Le prese entrambe per la vita con le sue robuste braccia da corsaro, le sollevò contemporaneamente e iniziò a girare come una trottola tra le grida di giubilo di Miss Rose e quelle di protesta di Eliza, che era sul punto di vomitare. Jeremy Somers lo salutò con una stretta di mano, chiedendosi come fosse possibile che suo fratello non fosse cambiato per niente negli ultimi 20 anni e continuasse a essere lo stesso svitato di sempre. «Cosa c'è, ragazzina? Hai proprio una brutta cera», disse il capitano esaminando Eliza. «Ho mangiato frutta acerba, zio», spiegò appoggiandosi a lui per non cadere dalla nausea. «Beh, beh, so che non siete venuti al porto per ricevermi. Siete qui per comprare profumi, vero? Vi dirò chi ha i migliori, direttamente dal cuore di Parigi». In quel momento un forestiero gli passò di fianco e lo urtò accidentalmente con la valigia che portava in spalla. John Somers si girò indignato, ma quando lo riconobbe esplose in una delle sue caratteristiche maledizioni scherzose e lo trattenne per un braccio. «Vieni a presentarti alla mia famiglia, cinese!» lo apostrofò cordialmente. Eliza lo scrutò apertamente perché non aveva mai visto un asiatico da vicino e ora, finalmente davanti ai suoi occhi, c'era un abitante della Cina, quel favoloso paese che veniva citato in molti dei racconti dello zio. Si trattava di un uomo dall'età indefinibile, piuttosto alto se paragonato ai cileni, ma che accanto al corpulento capitano inglese sembrava un bambino. Camminava in modo sgraziato, aveva la pelle levigata, il corpo asciutto di un ragazzo e un'espressione antica negli occhi a mandorla. La circospezione solenne contrastava con la risata infantile che gli scoppiò dal fondo del cuore quando Somers gli si rivolse. Indossava pantaloni sopra le caviglie, un'ampia camicia di tela grezza e una fascia in vita dove portava un coltello. Calzava scarpette minute, esibiva un cappello di paglia sgualcito e sulla schiena gli pendeva una lunga treccia. Salutò, chinando il capo diverse volte, senza abbandonare la valigia e senza guardare nessuno in faccia. Miss Rose e Jeremy Somers, sconcertati dalla familiarità con cui il fratello trattava una persona di rango indubbiamente inferiore, non sapendo come comportarsi, risposero con un gesto breve e sbrigativo. Con orrore Miss Rose vide Eliza tendergli la mano, ma l'uomo finse di non vederla. «Ecco Tao Chien, è il peggior cuoco che io abbia mai avuto, ma sa curare quasi tutte le malattie. Per questo non me ne sono ancora sbarazzato», scherzò il capitano. Tao Chien ripeté una nuova serie di inchini, esplose in un'altra risata apparentemente immotivata e immediatamente si allontanò retrocedendo. Eliza si chiese se capisse l'inglese. Alle spalle delle due donne, John Summers sussurrò al fratello che il cinese poteva vendergli oppio della migliore qualità e polvere di corno di rinoceronte per l'impotenza, nel caso in cui un giorno o l'altro decidesse di abbandonare la cattiva abitudine del celibato. Nascondendosi dietro al ventaglio, Eliza ascoltò intrigata. Quel pomeriggio a casa, all'ora del tè, il capitano distribuì i regali che aveva portato. Schiuma da barba inglese, un set di forbici di Toledo e sigari Havana per il fratello, pettini di tartaruga e uno scialle di seta ricamato di Manila per Miss Rose e come sempre un gioiello per la dote di Eliza. Questa volta si trattava di una collana di perle che la ragazza accettò con commozione e che mise nel suo portagioie insieme agli altri monili che aveva ricevuto. Grazie alla testardaggine di Miss Rose e alla generosità di quello zio, il baule per le nozze si stava riempiendo di tesori. «Questa consuetudine della dote mi sembra stupida, soprattutto se non c'è neanche un fidanzato in giro», sorrise il capitano. «O forse all'orizzonte ce n'è uno». La ragazza scambiò un'occhiata terrorizzata con mamma Fresia, che in quel momento era entrata con il vassoio del tè. Il capitano non disse nulla, ma si domandò come mai la sorella Rose non avesse notato i cambiamenti di Eliza. A quanto pareva l'intuito femminile non serviva granché. Passarono il resto del pomeriggio ascoltando i meravigliosi racconti del capitano sulla California, benché dopo la fantastica scoperta non fosse andato da quelle parti, e di San Francisco potesse dire soltanto che si trattava di una borgata piuttosto misera, situata però nella baia più bella del mondo. La novità dell'oro era l'unico argomento di cui si parlava in Europa e negli Stati Uniti ed era arrivato fino alle sponde dell'Asia. La sua imbarcazione era stracolma di passeggeri diretti in California, la maggior parte dei quali era all'oscuro delle più elementari nozioni minerarie e molti dei quali non avevano visto in vita loro il metallo nemmeno in un dente. Non c'era modo di arrivare comodamente o in fretta a San Francisco. La navigazione durava mesi nelle più precarie condizioni, spiegò il capitano. Ma via terra, attraverso il continente americano, sfidando l'immensità del paesaggio e il pericolo degli indiani, il viaggio era più lungo e c'erano meno possibilità di salvarsi la pelle. Chi si avventurava in nave fino a Panama attraversava con portantine l'istmo per fiumi infestati da bestiacce, viaggiava su muli nella foresta e una volta giunto sulle coste del Pacifico saliva un'altra volta a bordo verso nord. Doveva misurarsi con un caldo atroce, rettili velenosi, zanzare, epidemie di colera e febbre gialla, oltre all'impareggiabile malvagità degli uomini. I viaggiatori, che sopravvivevano illesi alle cadute dalle cavalcature nei precipizi e ai pericoli delle paludi, si ritrovavano dall'altra parte vittime dei banditi, che li depredavano di tutti i loro beni, o di mercenari, che si facevano pagare una fortuna per portarli a San Francisco, ammassati come bestiame su navi sgangherate. «È molto grande la California?» chiese Eliza, cercando di impedire alla sua voce di tradire l'ansia del cuore. «Portami una cartina e te la farò vedere. È molto più grande del Cile». «E come si arriva all'oro?» «Boh, dicono che ce ne sia ovunque». «Ma se uno volesse, diciamo, tanto per fare un esempio, trovare una persona in California?» «Sarebbe piuttosto difficile», replicò il capitano, studiando con curiosità l'espressione di Eliza. «Vai da quelle parti nel tuo prossimo viaggio, zio?» «Mi hanno fatto un'offerta allettante, credo che l'accetterò. Alcuni investitori cileni vogliono costituire un servizio regolare di trasporto di merci e passeggeri per la California. Hanno bisogno di un capitano per il loro vapore». «Allora ti vedremo più spesso, John», esclamò Rose. «Tu non hai esperienza di vapori», fece notare Jeremy. «No, ma conosco il mare meglio di chiunque altro». La notte del venerdì indicato, Eliza attese che la casa fosse in silenzio per dirigersi all'appuntamento con mamma Fresia nella casetta dell'ultimo patio. Abbandonò il letto e scese scalza, con indosso semplicemente una camicia da notte di batista. Non aveva idea del tipo di rimedio che le sarebbe stato somministrato, ma era certa che non avrebbe passato un bel momento. Sapeva per esperienza che tutte le medicine erano sgradevoli, ma quelle dell'India erano addirittura schifose. «Non preoccuparti, bambina, ti darò tanta di quell'acquavite che quando ti sveglierai dalla sbronza non ti ricorderai del dolore. Però avremo bisogno di molti panni per raccogliere il sangue», le aveva detto la donna. Eliza aveva fatto spesso quel percorso al buio nella casa per ricevere l'amante e non aveva bisogno di prendere precauzioni, ma quella notte procedeva molto lentamente, indugiando, desiderando che venissero di quei terremoti cileni capaci di scaraventare tutto a terra pur di avere un buon pretesto per mancare all'appuntamento con Mama Fresia. Si sentì i piedi gelati e un brivido scorrerle lungo la schiena. Non capì se fosse di freddo, di paura per ciò che doveva affrontare, o se fosse l'ultimo avvertimento della sua coscienza. Fin dal primo campanello d'allarme della gravidanza aveva sentito quella voce che la chiamava. Era la voce del bambino che in fondo al ventre reclamava il suo diritto alla vita, ne era certa. Cercava di non sentirla e di non pensarci, era in trappola, poiché se si fosse iniziato a notare il suo stato, per lei non ci sarebbero stati né speranza né perdono. Nessuno avrebbe dimostrato comprensione per il suo errore, né avrebbe avuto modo di recuperare l'onore perduto. Né le preghiere né le candele di Mamma Fresi avrebbero impedito la disgrazia. Il suo amante non si sarebbe girato a metà strada per tornare di corsa a sposarsi con lei prima che la gravidanza fosse palese. Ormai era troppo tardi. La terrorizzava l'idea di finire come la madre di Joaquin, marchiata da uno stigma infamante, espulsa dalla famiglia e costretta a vivere con un figlio illegittimo in povertà e solitudine. Non avrebbe sopportato di essere ripudiata, preferiva morire una volta per tutte e poteva benissimo morire quella stessa notte per mano di quella donna buona che l'aveva allevata e che l'amava più di ogni altro al mondo. La famiglia si era ritirata presto, ma il capitano e Miss Rose erano rimasti chiusi a bisbigliare per ore nella stanza del cucito. A ogni viaggio John Somers portava dei libri per la sorella e partiva con misteriosi pacchetti che Eliza sospettava contenessero gli scritti di Miss Rose. L'aveva vista incartare con cura i suoi quaderni, quegli stessi che riempiva con la sua fitta calligrafia nei pomeriggi oziosi. Per rispetto o per una sorta di strano pudore, nessuno li citava, come del resto non si menzionavano i suoi pallidi acquerelli. La scrittura e la pittura venivano considerate sentieri secondari, niente di cui vergognarsi sul serio, ma nemmeno di cui andar fieri. Le doti culinarie di Eliza ricevevano lo stesso indifferente trattamento da parte dei Somers, che assaporavano i suoi piatti in silenzio e cambiavano argomento se gli ospiti li commentavano, ma tributavano invece immeritati applausi alle sue coraggiose esecuzioni al piano, anche se servivano a malapena ad accompagnare frettolosamente le canzoni altrui. Per tutta la vita Eliza aveva visto la sua protettrice con la penna in mano e non le aveva mai chiesto cosa stesse scrivendo, domanda che del resto non aveva sentito formulare né da John né da Jeremy. Era curiosa di sapere perché suo zio si portasse via con tanta discrezione i quaderni di Miss Rose, ma senza che nessuno glielo avesse detto, sapeva che si trattava di uno di quei segreti fondamentali su cui si basava l'equilibrio della famiglia e violarlo poteva far crollare con un soffio il castello di carte in cui vivevano. Era già da parecchio che Jeremy e Rose dormivano nelle loro camere e probabilmente dopo cena zio John era uscito a cavallo. Conoscendo le abitudini del capitano, la ragazza se lo immaginò a far baldoria con qualcuna delle sue frivole amichette, quelle stesse che lo salutavano quando con lui non c'era Miss Rose. Sapeva che ballavano e bevevano, ma siccome di prostitute aveva semplicemente sentito mormorare, non le venne in mente qualcosa di più sconcio. La possibilità di fare per soldi o per diporto le cose che lei aveva fatto per amore con Joaquín Andieta non la sfiorava minimamente. Secondo i suoi calcoli, lo zio non sarebbe rientrato se non a mattino inoltrato, motivo per cui si prese un terribile spavento quando, arrivata al pian terreno, sentì che qualcuno le afferrava il braccio al buio. Sentì il calore di un corpo grande contro il suo e un respiro di liquore e tabacco che le fece identificare immediatamente lo zio. Cercò di liberarsi dalla presa mentre valutava rapidamente le possibili spiegazioni per giustificare il suo essere lì a quell'ora in camicia da notte, ma il capitano la condusse con fermezza nella biblioteca, illuminata appena da qualche raggio di luna che attraversava la finestra. La obbligò a sedersi sulla poltrona di cuoio inglese di Jeremy e si mise a cercare i fiammiferi per accendere la lampada. Molto bene, Eliza, adesso mi racconti cosa diavolo ti sta succedendo. Le ordinò con un tono mai usato prima con lei. In un lampo di lucidità, Eliza capì che lo zio non sarebbe stato suo alleato come aveva sperato. La tolleranza che ostentava questa volta non sarebbe valsa a nulla. Se si trattava del buon nome della famiglia, si sarebbe lealmente schierato con i fratelli. In silenzio la ragazza sostenne il suo sguardo con aria di sfida. «Rose dice che hai perso la testa per un mentecatto dalle scarpe rotte, è vero?» «L'ho visto due volte, zio John, e qualche mese fa. Non conosco neppure il suo nome.» «Ma non l'hai dimenticato, vero? Il primo amore è come il vaiolo, lascia tracce indelebili. Vi siete visti da soli?» «No.» «Non ti credo, pensi che sia tonto. Chiunque potrebbe accorgersi di quanto sei cambiata, Eliza.» «Sono ammalata, zio. Ho mangiato frutta acerba e ho la pancia sottosopra. Stavo giusto andando alla latrina.» «Hai occhi da cagna in calore.» «Perché mi insulti, zio?» «Scusami, piccola. Non capisci che ti voglio molto bene, che sono preoccupato. Non posso permettere che ti rovini la vita. Rose e io abbiamo un progetto magnifico. Ti piacerebbe andare in Inghilterra? Posso sistemare le cose in modo che vi imbarchiate entro un mese, così avrete tempo di comprare tutto il necessario per il viaggio.» «In Inghilterra? Viaggerete in prima classe, come due regine. E a Londra alloggerete in una pensione deliziosa, pochi isolati da Buckingham Palace.» Eliza capì che i due fratelli avevano già deciso il suo destino. L'ultima cosa al mondo che desiderava era partire prendendo la direzione opposta a quella di Joaquin, mettendo due oceani di distanza tra loro. «Grazie, zio, mi piacerebbe molto visitare l'Inghilterra», disse con la più grande dolcezza che riuscì a simulare. Il capitano si servì un brandy dopo l'altro, accese la pipa e passò le successive due ore a enumerare i vantaggi della vita a Londra, dove una signorina come lei poteva frequentare la miglior società, andare ai balli, a teatro e ai concerti, acquistare i vestiti più belli e realizzare un buon matrimonio. Era già in età di farlo e non le sarebbe piaciuto andare anche a Parigi o in Italia? Non si poteva morire senza aver visto Venezia o Firenze. Lui avrebbe soddisfatto tutti i suoi capricci. Non l'aveva sempre fatto, d'altronde? Il mondo traboccava di uomini belli, interessanti e dalla buona posizione. L'avrebbe potuto verificare da sé non appena fosse uscita dal buco in cui era sepolta in quel porto dimenticato. Valparaiso non era il posto giusto per una ragazza così carina e ben educata come lei. Non era colpa sua se si era innamorata del primo che le era passato davanti. Viveva rinchiusa. E in quanto a quel giovanotto, com'è che si chiamava? Dipendente di Jeremy, no? Presto se lo sarebbe dimenticato. L'amore, garantì, muore inesorabilmente per combustione interna o viene estirpato alla radice con la lontananza. Nessuno meglio di lui poteva consigliarla. Nel suo piccolo era un esperto in quanto a distanze e amori trasformati in cenere. «Non so di cosa stai parlando, zio. Miss Rose si è inventata un romanzo rosa partendo da un bicchiere di succo d'arancia. È venuto un tizio a lasciare dei colli, gli ho offerto una bibita, l'ha presa e poi se n'è andato. Questo è quanto. Non è successo niente e non l'ho più rivisto.» «Beh, se è andata come dici, sei fortunata. Non dovrai strapparti questa fantasia dalla testa.» John Somers continuò a bere e a parlare fino all'alba, mentre Eliza, rannicchiata nella poltrona di cuoio, si abbandonava al sonno, pensando che, dopo tutto, il cielo aveva ascoltato le sue preghiere. Non era stato un provvidenziale terremoto a salvarla dall'orribile rimedio di mamma Fresia. Era stato suo zio. Nella casupola del patio, l'India aspettò per tutta la notte. Il commiato. Il sabato pomeriggio John Somers invitò la sorella Rose a visitare la nave dei Rodriguez de Santa Cruz. Se le trattative di quei giorni fossero andate a buon fine, sarebbe toccato di capitanarla proprio a lui, che così avrebbe finalmente realizzato il sogno di navigare a vapore. Più tardi Paulina li ricevette nel salone dell'hotel inglese in cui era alloggiata. Dal nord era tornata a Valparaiso per mettere in moto il suo piano, mentre il marito si trovava in California da vari mesi. Approfittavano del continuo traffico di imbarcazioni che facevano la spola per comunicare attraverso una fitta corrispondenza nella quale le dichiarazioni di affetto coniugale si intrecciavano a progetti commerciali. Paulina scelse di assumere nella sua impresa John Somers solo per intuito. Si ricordava vagamente che era fratello di Jeremy Rose Somers, gringo che suo padre aveva invitato in un paio di occasioni nella tenuta, ma l'aveva visto solamente una volta e con lui non aveva scambiato che qualche frase di circostanza. La sua unica referenza era la comune amicizia con Jacob Todd, ma nelle ultime settimane aveva svolto qualche indagine ed era molto contenta di quello che le era stato riferito. Il capitano godeva di una solida reputazione tra la gente di mare e nelle compagnie commerciali. Ci si poteva fidare della sua esperienza e della sua parola più di quanto non avvenisse normalmente in quei giorni di delirio collettivo in cui chiunque poteva affittare un'imbarcazione, formare una compagnia di avventurieri e salpare. In genere si trattava di faciloni, le navi erano mezzo sgangherate, ma tutto ciò non aveva molta importanza, visto che una volta arrivati in California le società si estinguevano. Le imbarcazioni venivano abbandonate e tutti si precipitavano verso i giacimenti auriferi. Paolina, invece, aveva un programma di ampio respiro. Tanto per cominciare, non era obbligata a tenere in considerazione le esigenze di qualcun altro che non fosse suo marito o suo cognato, gli unici soci, ed essendo sua la maggior parte del capitale, poteva decidere in piena autonomia. Il suo vapore, da lei battezzato Fortuna, per quanto piuttosto piccolo e con diversi anni di navigazione alle spalle, si trovava in condizioni invidiabili. Era disposta a pagare bene l'equipaggio purché non disertasse per correre dietro a loro, ma sapeva che senza la mano ferrea di un buon capitano non c'era salario in grado di mantenere la disciplina a bordo. L'idea del marito e del cognato consisteva nell'esportare attrezzi per minatori, legname per le case, abbigliamento da lavoro, utensili domestici, carne essiccata, cereali, fagioli e altri prodotti non deperibili, ma appena Paolina ebbe messo piede a Valparaiso, si rese conto che in molti si stavano dedicando allo stesso progetto e che la concorrenza sarebbe stata feroce. Diede un'occhiata in giro e notò l'eccezionale quantità di frutta e verdura, regalo di quell'estate generosa. Ce n'era talmente tanta che non riuscivano a venderla. Gli ortaggi crescevano nei pati e gli alberi si spezzavano sotto il peso dei frutti. Pochi erano disposti a pagare quel che si poteva avere gratis. Pensò al podere di suo padre, in cui frutta e verdura marcivano a terra perché nessuno aveva interesse a raccoglierle. Oh, se avesse potuto portarle in California, sarebbero state più preziose dell'oro stesso, concluse. Prodotti freschi, vino cileno, medicine, uova, abbigliamento elegante, strumenti musicali e, perché no, spettacoli teatrali e operette. San Francisco riceveva centinaia di immigrati al giorno. Per il momento si trattava di avventurieri banditi, ma senz'altro sarebbero arrivati anche i coloni dell'altro lato degli Stati Uniti, onesti agricoltori, avvocati, medici, insegnanti e ogni sorta di persona per bene pronta a stabilirsi con la sua famiglia. Dove ci sono donne c'è civiltà e non appena questa avrà preso piede a San Francisco, lì ci sarà anche il mio vapore con tutto il necessario, decise. Paolina ricevette John Somers e sua sorella Rose all'ora del tè, quando il caldo del mezzogiorno si era mitigato e una fresca brezza marina aveva iniziato a spirare. Il suo abbigliamento era eccessivamente lussuoso per la sobria società del porto. Rivestita com'era dalla testa ai piedi di una mussola con pizzi color burro, con una corona di riccioli sulle orecchie e più gioielli di quanto fossero accettabili a quell'ora del giorno. Il figlio di 2 anni scalciava in braccio una bambina in divisa e un cagnolino lanuto ai suoi piedi divorava i pezzi di torta che lei gli avvicinava al muso. La prima mezz'ora se ne andò in presentazioni, nel bere il tè e nel ricordare Jacob Todd. «Che ne è stato di quel buon amico?» volle sapere Paolina, che non avrebbe mai dimenticato l'intervento dello stravagante inglese nel suo amore con Feliciano. «Oh, è da parecchio che non so nulla di lui», la informò il capitano. Partì con me per l'Inghilterra un paio di anni fa. Era molto depresso, ma l'aria di mare gli fece bene e quando sbarcò aveva recuperato il buon umore. L'ultima cosa che sono venuto a sapere è che aveva intenzione di formare una colonia utopista. «Una cosa?» esclamarono all'unisono Paolina e Miss Rose. «Una comunità che vive fuori dalla società, con le proprie leggi e il proprio governo». Ispirata ai principi di uguaglianza, libero amore e lavoro collettivo, mi sembra, o perlomeno questa fu la spiegazione che mi diede migliaia di volte durante il viaggio. Ah, è più suonato di quanto pensassimo, concluse Miss Rose con una punta di compassione per il fedele pretendente. Le persone con idee originali finiscono sempre per guadagnarsi la fama di matti, osservò Paolina. Senza andar troppo lontani, ho un'idea che mi piacerebbe discutere con lei, capitano Somers. Lei conosce il Fortuna. Quanto ci può impiegare a tutto vapore da Valparaiso al Golfo de Penas? Al Golfo de Penas? Ma è più a sud del sud. Certo, più giù di Puerto Aysén. E cosa dovrei andarci a fare? Non ci sono altro che isole, boschi e piogge. Conosce quella zona? Sì, ma pensavo che si parlasse di andare a San Francisco. Assaggi questi dolcetti di pasta sfoglia, sono una delizia, propose lei accarezzando il cane. Mentre John e Rose Summers conversavano con Paulina nel salone dell'hotel inglese, Eliza era in giro nel quartiere di Almendral con mamma Fresia. A quell'ora iniziavano a riunirsi gli alunni e gli invitati per le riunioni di ballo dell'Accademia e, in via del tutto eccezionale, Miss Rose le aveva permesso di andare un paio d'ore con la tata nel ruolo di chaperon. Solitamente non le consentiva di affacciarsi all'Accademia senza di lei, ma il professore di ballo non offriva bibite alcoliche prima del tramonto e questa misura teneva lontani i giovani irrequieti nelle prime ore del pomeriggio. Eliza decise ad approfittare di questa opportunità unica in cui usciva senza Miss Rose e convinse l'India ad appoggiare il suo progetto. «Dammi la tua benedizione, mamita. Devo andare in California a cercare Joaquin», le disse. «Ma come pensi di andarci sola e incinta?» domandò la donna con orrore. «Anche se non mi aiuti ci andrò lo stesso. Dirò tutto a Miss Rose. Se lo fai mi ammazzo e poi verrò a toglierti la pace per il resto delle tue notti, te lo giuro», replicò la ragazza con feroce determinazione. Il giorno prima al porto aveva visto un gruppo di donne che negoziavano per imbarcarsi. Dal loro aspetto, così diverso da quello delle altre che incrociava normalmente per la strada, coperte estate e inverno da mantelli neri, immaginò che fossero le donnacce con le quali se la spassava lo zio John. «Sono puttane, vanno a letto per soldi e se ne andranno dritte dritte all'inferno», le aveva spiegato una volta mamma Fresia. Aveva colto qualche frase del capitano in cui raccontava a Jeremy Summers di cilene e peruviane che partivano per la California con l'intento di impadronirsi dell'oro dei minatori, ma non riusciva a immaginare come si organizzassero per farlo. Se queste donne intraprendevano il viaggio da sole e sopravvivevano senza aiuto, lo poteva fare anche lei, decise. Camminava in fretta, col cuore in subbuglio e il viso mezzo nascosto dal ventaglio, sudando nel caldo di dicembre. Portava con sé i gioielli della dote in un sacchettino di velluto. Gli stivaletti nuovi si rivelarono uno strumento di tortura e il busto le opprimeva la vita. Il fetore dei fossi a cielo aperto in cui scorrevano le acque di scarico della città aumentava la sua nausea, ma Eliza procedeva dritta come un fuso, come aveva imparato negli anni in cui si dedicava a mantenere in equilibrio un libro sulla testa e a suonare il piano con una bacchetta di metallo legata alla schiena. Mamma Fresia, gemendo e borbottando litanie nella sua lingua, con le sue varici e la sua ciccia, riusciva a malapena a starle dietro. «Ma dove stiamo andando, bambina mia, per carità?» Ma Eliza non poteva risponderle perché non lo sapeva. Di una cosa però era certa, di impegnare i gioielli e di comprare un biglietto per la California non se ne parlava, perché non c'era modo di farlo senza che lo zio John lo venisse a sapere. Nonostante le dozzine di imbarcazioni che attraccavano giornalmente, Valparaiso era una città piccola e al porto tutti conoscevano il capitano John Summers. Non poteva neanche contare su un documento d'identità e men che meno su un passaporto. Impossibile da ottenere, perché in quei giorni la delegazione degli Stati Uniti in Cile era chiusa per via dell'amore contrastato tra un diplomatico nordamericano e una dama cilena. Eliza concluse che l'unico modo per raggiungere Joaquin Andieta in California era imbarcarsi clandestinamente. Zio John le aveva raccontato che a volte, con la complicità di qualche membro dell'equipaggio, sulle navi si imbarcavano passeggeri clandestini. Alcuni riuscivano a rimanere nascosti durante la traversata, mentre altri morivano e i loro corpi finivano in mare, senza che lui se ne accorgesse, ma se li scopriva castigava nello stesso modo il clandestino e chi l'aveva aiutato. Quello era uno dei casi, le aveva detto, in cui esercitava nel modo più rigoroso la propria indiscutibile autorità di capitano. In alto mare non c'era altra legge e altra giustizia che la sua. La maggior parte delle transazioni illecite del porto, stando a suo zio, veniva condotta nelle taverne. Eliza non aveva mai messo piede in tali luoghi, ma vide una figura femminile dirigersi in un locale vicino e la riconobbe come una delle donne che il giorno prima si trovavano sul molo per tentare di imbarcarsi. Era una ragazza tarchiata, con due trecce nere sulla schiena, vestita con una gonna di cotone, una blusa ricamata e uno scialle sulle spalle. Eliza la seguì senza pensarci due volte, mentre mamma Fresia rimaneva per strada a recitare avvertimenti. «Lì entrano solo le puttane, bambina mia! È peccato mortale!» Spinse la porta ed ebbe bisogno di qualche secondo per abituarsi all'oscurità e all'odore di tabacco e di birra rancida che impregnava l'aria. Il luogo era gremito di uomini e tutti gli occhi si girarono a guardare le due donne. Per un istante regnò un silenzio d'attesa e poi partì un coro di fischi e commenti osceni. La donna avanzò con passo agguerrito verso un tavolino in fondo, lanciando manate a destra e a manca quando qualcuno tentava di toccarla, ma Eliza retrocedette alla cieca, inorridita, senza riuscire a capire cosa stesse succedendo né perché quegli uomini stessero gridando. Raggiunse la porta e si scontrò con un avventore che stava entrando. L'uomo lanciò un'esclamazione in un'altra lingua e riuscì a reggerla mentre lei stava per scivolare a terra. Quando la guardò, rimase sconcertato. Eliza, con il suo vestito verginale e il suo ventaglio, risultava completamente fuori luogo. Lei lo guardò a sua volta e riconobbe immediatamente il cuoco cinese che suo zio aveva salutato il giorno prima. «Tao Chi En!» chiese, grata alla sua buona memoria. L'uomo la salutò unendo le mani davanti al viso e chinandosi ripetutamente, mentre nel bar continuavano i fischi. Due marinai si alzarono e si avvicinarono barcollando. Tao Chien indicò a Eliza la porta ed entrambi uscirono. «Miss Somers», indagò una volta fuori. Eliza assentì, ma non ebbe modo di aggiungere altro perché furono interrotti dai due marinai del bar che apparvero sulla porta, in evidente stato d'ebbrezza e desiderosi di attaccar briga. «Come osi disturbare questa graziosa signorina cinese?» minacciarono. Tao Chien chinò la testa, fece mezzo giro e accennò ad andarsene, ma uno degli uomini lo bloccò, afferrandolo per la treccia e tirandogliela mentre l'altro biascicava smancerie, soffiando il suo alito marcio di vino sul viso di Eliza. Il cinese si girò con la velocità di un felino e affrontò l'aggressore. Aveva in mano il suo singolare coltello e la lama brillava come uno specchio sotto il sole estivo. Mamma Fresia cacciò un urlo e senza indugiare diede uno spintone da cavallo al marinaio più vicino, afferrò Eliza per un braccio e cominciò a correre per la strada con un'agilità insospettabile in una donna della sua stazza. Corsero per vari isolati senza fermarsi, allontanandosi dalla zona pericolosa finché non giunsero nella piazzetta di San Agustin e lì mamma Fresia crollò tremando sulla prima panchina a portata di mano. «Ah, bambina mia, se i padroni lo vengono a sapere mi ammazzano, andiamo a casa immediatamente!» «Non ho ancora fatto quel che dovevo, mamita, devo tornare in quella taverna!» Mamma Fresia incrociò le braccia, rifiutandosi con grande risolutezza di muoversi di lì, mentre Eliza si incamminava a lunghi passi, cercando di organizzare un piano in mezzo a tanta confusione. Non aveva molto tempo a disposizione. Le istruzioni di Miss Rose erano state ben chiare. Alle 6 in punto la carrozza sarebbe passata a prenderle di fronte all'Accademia di Ballo per riportarle a casa. Capì che doveva agire in fretta, perché un'altra occasione non si sarebbe ripresentata.